YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. E bentornati a Radio Tube. Bentornata, certo che, Marta. Beh, in realtà appunto io il sabato del villaggio è in diretta. Ci ritroviamo mezz'ora prima dell'inizio di Radio Tube con le voci in scena che comunque poi vi tengono compagnia per tutta l'estate, gli incontri che abbiamo fatto quest'anno. E poi dalle 17 alle 18 non manchiamo per tutto luglio Radio Tube. Daniele Bellasio, chiocciola di Bellasio. Luglio col Marta bene Cagnola. Che ti voglio. Hashtag Radio Tube. Sì, sì, tutti i nostri account di non Twitter, ma tanto Expo? Lo sanno. No, che mi sono divertita. Sì, sì. È stato bello. Salutiamo Cibusa Italia. Bello, sì, sì, ci siamo divertiti. Expo. Quando bello. Ci volete ancora, noi veniamo noi lì torniamo. A trasmettere. Adesso dura questi due tre mesi ancora. Poi. Sì, sì, ma c'è ancora tanto tempo. Polemiche, biglietti. Un po' di caldo, questa settimana. Tutto l'inizio mamma della settimana. Mia, veramente, è stato veramente tanto caldo questa settimana. E qualcuno... Dobbiamo parlare del tempo, è già finito il nostro dialogo. No, volevo di lanciare solito. Il primo audio. Che adesso leggo qualcuno... sulla scaletta. Maccio c'è scritto. Sì, il grandissimo, il leggendario, il favoloso, il bellissimo Maccio Capatonda. Ha fatto l'8 luglio, cioè quindi un anno dopo, l'Ice Bucket Challenge. Te lo ricordi l'Ice Bucket Challenge? Sì, ma era quello per che l'acqua addosso, no? I fredda, cubetti di ghiaccio, fatto tutti Renzi, George sì, Bush, sì, per raccogliere fondi per la SLA. Sì, invece, allora Maccio Capatonda l'ha fatto quest'anno. Sì. Sempre un po' caustico e un po' abrasivo. Sì. E sai perché? Vabbè, ascoltiamolo. Sentiamolo. Maccio Capatonda e la Vediamolo. Sua Ice Bucket Challenge nel 2015. Ciao a tutti, sono Maccio Capatonda e finalmente anch'io ho deciso di fare una donazione attraverso l'Ice Bucket Challenge per la SLA, una malattia insomma che colpisce molte persone, quindi mi verserò quest'acqua ghiacciata in testa. Ma prima devo fare nomination. Ma che no. fai? Che fai? Sto facendo donazione per la SLA per le persone, per una causa importante. Passato un anno, non è più di moda la SLA. Che poi è una malattia la SLA, come non è più di moda? Ma non è più di moda, un anno fa andava. Ma fammi fare la donazione. Devi fare un'altra cosa, l'hanno fatta tutti. Vabbè, l'ebola, faccio l'ebola. Sì, l'ebola. L'ebola pure sono 5-6 mesi che c'è l'ebola, hanno fatto di tutto. E che adesso ci sono i diritti, quella dell'arcobaleno, i diritti degli omosessuali. Dai, dono per i diritti degli omosessuali. Sì, dai. Però pure è già passato un po' di tempo, ne hanno parlato pure tutti, Facebook, cioè 3000. La Grecia, faccio la Grecia. La Grecia sta vivendo un periodo gravissimo, quindi sì, doniamo dei soldi. Sì, ho capito, ma da quando se ne parla di comunque di sta Grecia? Cioè... Senti, fa caldo, to! Oh! È cattivo, però cattivo e intelligente. Molto. È vero, perché Gaber qua... cantava il potere dei più buoni. Però comunque io resto favorevole a queste campagne, che anche se va bene, vivono anche un po' di moda, ma se raccolgono un sacco di soldi. Sì, però cioè tutti fanno la moda, poi non se ne ricorda più nessuno. Ha ragione. Ma non ha detto, a parte che molti di quelli che l'avranno fatto sicuramente se ne saranno ricordati anche dopo. E poi cioè, è chiaro che ci sono degli eventi e... Preferiamo Maccio la rete Capatonda. Quando l'onda è negativa, non lo so, chiedo. Oppure i tormentoni idioti. Sai qual è il tormentone idiota di questa settimana? Non lo so, il tormentone sulle Te lo canzoni. Ricordi The Dress? Sì, quello che non si capiva di che colore era, ero sì, preparato. Se era blu o nero o io avevo detto bianco e oro. Che era nero azzurro per ovvie ragioni. Tu avevi detto invece per altre ragioni che era oro e bianco. Per sì, perché altre davvero ragioni. In certi Chissà momenti lo vedevo in un modo. Ma no, io lo vedevo a volte in un modo e uno dell'altro. Adesso invece dopo The Dress, sì, in queste c'è. Ultime ore c'è The Cosa Shoe, cioè è ancora più idiota, praticamente no, una scarpa, no. sì, una scarpa fucsia, lilla, violetta, non si capisce di che colore sia, con due smalti vicini. Sì. E la foto dice: ma quale smalto metto? Il primo o il secondo? Uno fucsia e uno lilla. E tu, se guardi uno, la scarpa sembra di un colore, se guardi l'altro, la scarpa sembra dell'altro colore. E sembrerà Sai che una io non idiozia. Non ho praticamente capito nulla. Vabbè, adesso te la mostro e poi la twitto anche agli ascoltatori. Tanto così. Tutti coloro che hanno visto i social in questi giorni. Sono tutti ma lì sì. che c'è la Grecia che crolla, c'è tutte le polemiche, Expo, Wimbledon, tutte queste cose qua, ma. ma sono tutti lì a twittare se la scarpa è rosa o lilla. È così che funziona. Hashtag the shoe, la scemenza della settimana in pratica. Beh, l'hai detto tu. Allora, inizia l'estate, che caldo fa, che caldo fa, e tutti lì a chiedersi quale sarà, ecco, il tormentone dell'estate. Quale quest'estate? Secondo me la canzone dell'estate è L'estate addosso di Jovanotti. Che ansia con sto Jovanotti. No, il concerto. Il concerto di Jovanotti. Ho già preso i biglietti per novembre. Ah, sei già pronto? No, il Periscope di Francesca Valiani, della moglie Jovanotti. Bravissima a fare i Periscope, la ringraziamo, chi c'è stato, li guardiamo, c'è tutto un mondo sui social. Ho già preso i biglietti per novembre. Mamma mia, che sei veramente troppo... Beh, sì. Anche a Rocco piace tantissimo, canta le canzoni, bambino a vedere Jovanotti. Quindi è stato addosso, ma già allora c'è qualcuno che ha fatto... Questo video è stato fatto da Repubblica TV, sì? È carino questo video dei tormentoni estivi del passato. Così sentiamo un po' di musica. Io vorrei un po' di musica RadioTube. Andrea, mostraci qualche tormentone del passato. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Non è che ce li ascoltiamo tutti. No, però lasciami Cuore, Sole, Amore. Amore, Cuore, Sole. Com'era? Ah, ti piaceva qua di Valeria Rossi? Sole, Cuore, Amore? Tre parole. Vabbè, adesso vediamo. Ma no, ma perché tra poco dobbiamo dare la pausa delle abilità. Tu sei capace di parlare come i DJ che arriva poi la canzone? In bolla. Ma ti ho già spiegato che c'è una scuola praticamente. Ma no, a proposito di scuola. Ma che hai un conto alla rovescia. Mentale. No, anche sul computer hai un conto alla rovescia. Stai dicendo, vuol dire, se tu leggessi quella cosa rossa che ogni tanto ma no. Gli occhi di terrore. Sì, infatti, perché gli ascoltatori non ci vedono, ma io faccio delle facce. Infatti, perché? C'è Andrea in regia che sorride. Sì. Io cerco di fare delle facce per farti capire le cose. Se hai il controllo. Qua c'è un orologio, qua in radio funziona lui così. Gli scrivo le cose sulla scaletta, lui non capisce, mi guarda con gli occhi in te. Ma non importa. Però, non importa. Allora, parleremo con un grande maestro. Il grande maestro sportivo di uno sport televisivo, possiamo dire così. Avremo tanti sportivi oggi, due. Però parleremo i due più grandi. Io però allora a questo punto ti dico solamente che secondo me il tormentone di quest'estate è la canzone dei The Colors, anche se a me piace molto quella di Malika. Me la canticchi? Ah, Malika, brava. Te la canticchio durante il traffico? Dai, durante il traffico. Durante il traffico Marta canta. Sì, e ci sentiamo tra poco. YouTube. E bentornati a RadioTube con il secondo blocco dopo il traffico. A luglio noi ci siamo con tutte le puntate nuove fino alla fine di luglio e con degli ospiti fuochi d'artificio, dei campioni. Dei campioni, in questo caso io della maratona. Sì, dopo abbiamo vero. Il tennis, prima adesso la maratona. Ho un po' di ansia io, sì, perché siamo preoccupati che ci sgridi tutti e due, lo diciamo due ai per ragioni diverse. Ai radioascoltatori. Beh, lui è il giornalista di cui parlano tutti sui social, però lui sui social ha un rapporto un po' così ambivalente. E ha scelto uno dei due. Vabbè, lo presentiamo subito. Sì. Lo presenti tu, Daniele, dai. Allora, abbiamo il direttore del TG di La 7, Enrico Mentana. Ciao, direttore. Ciao. Buonasera, direttore. Ciao, Marta. Allora, direttore, te lo chiedo subito, questo rapporto ondivago con i social. Con Twitter una volta hai litigato, hai detto mai più, e hai mantenuto la promessa. Ho litigato, pensa, per difendere da un mare di insulti immotivati uno che poi ho dovuto cacciare per via di insulti immotivati, nel senso che ebbe una trasmissione Giuliano Ferrara. E disse una cosa un po' forte e fu letteralmente sì. Sì, no, manco più del solito, e fu letteralmente sommerso da contumelia di persone che non avevano visto la trasmissione, ma come in una cattina di Sant'Antonio, avevano come quelle robe lì che sappiamo che succedono, no? Il mainstream negativo di Twitter. Allora ho detto, ragazzi, qui non si può fare in questo modo, piripi, uno sempre quella pretesa ansia da educatore col ditino alzato, e sono stato a mia volta mandato a quel paese. Allora ho fatto 2 più 2 e ho detto, ma innanzitutto ero già in surmenage, diciamo che Twitter è un lavoro, perché poi fare informazione vuol dire stare 4 ore su Twitter. Poi però semplicemente il mio è un altro lavoro e io non ho il problema che hanno tanti giornalisti, scrittori e quant'altro di stare su Twitter per esporre la mercanzia. Per fortuna faccio un lavoro che lo espone già fin troppo e non facendo come lavoro l'informazione su Twitter, non avendo l'ansia da prestazione di quelli che linkano tutti i loro articoli e cose di questo genere, non avendo piacere a parlare con delle persone che si chiamano Manuelino X44, no? E che mi dicono sei un cretino, e io dico no, cretino sarai tu, come ti permetti? Mi rispondo. Allora, non avendo nessuna di questi talenti, ho detto, ma sapete che cosa c'è? È meglio la vita fuori, meglio parlare con uno che ti risponde e di cui vedi la faccia. Però su Facebook, forse anche per via dello spazio che ti permette magari di scrivere delle cose più simili a un editoriale, ci sei. Facebook è un'altra cosa, completamente un'altra cosa. Ecco, intanto, perché? Ma intanto non hai quell'ansia di prestazione che ti dà Twitter, che consta deve essere, cioè noi giornalisti ci vantiamo di saper fare saggi di 40 pagine, di fare dei titoli sapidi, poi ci sono alcuni tra i giornalisti che hanno anche la pretesa di essere spiritosi, no? Quindi di mettere il bon mot, il calambur, il witz, no? Che, tutte queste cose. E invece su Facebook uno interviene, dice la sua, poi se vuole, nel mio caso è anche come dire un dovere professionale, legge le risposte, eccetera, se no ha contribuito a far sapere la sua, diciamo. C'è una indubbia utilità per me a scrivere quello che voglio quando voglio, anche perché uno mi dirà, ma sei il direttore del telegiornale, puoi dire sempre quello che vuoi, sì, ma non è che il telegiornale è lo spazio in cui io dico quello che voglio io, il telegiornale è lo spazio delle notizie, delle opinioni, dei commenti sui fatti della giornata. Se uno vuole sviluppare qualcosa con modalità sue, sceglie il suo spazio privato, perché non l'ho comprato il telegiornale, non lo dirigo. C'è più spazio nelle maratone, per esempio. Beh, appunto, abbiamo detto maratone. Il direttore Mentana è protagonista delle più irresistibili maratone, sia perché ci piacciono, ci divertono. Ecco, ma lo dici sia come perché... donna e quelle irresistibili? Oh. Ovviamente, direttore. Delle più irresistibili. Ciao, Daniele, a presto. Ciao. Delle più irresistibili. Io ero tutto pronto con la domanda tecnica sul ruolo del conduttore nelle maratonete. Vabbè, nelle maratonete. Dopo te la lasciamo fare. Sì, sì, ma no, non ti preoccupare. Ah, richiamato. Bene, il ruolo del conduttore nelle maratonete. Ecco, sì, esatto. Vedi che sgrida di più me. Te l'avevo detto. E guarda che Freud è in agguato. Vai. Ci chiedevamo chi sarebbe stato più sgridato. Sai quanti anni fa anche sono stata... Anche perché la conduttrice sei tu, deve sgridare Sai te. Io sono solo quanti la anni spalla, fa sono diciamo. Stata stagista di Enrico Mentana. Non interessa, no, se offende. Stagista è una... Stagista è una locuzione, è un termine che non si deve non usare. Si può più usare, non si può usare. Era l'estate di Monica Lewinsky. Va 1990. Bene. Ecco, allora, cioè, tu te la cerchi proprio. No, dai, non potevo non dirla. Torniamo. Per tornare, per voltare pagina, racconto com'è andata. Okay. Mentre racconto un fatto mio per voltare pagina. Mentre c'era questa famosa speciale diretta sulla crisi greca, condotta da Enrico Mentana, a un certo punto io ho scritto su Twitter: secondo me il direttore Mentana non ne può più dei suoi ospiti, di uno in particolare, e quindi è in una forma battutistica pazzesca, che ha scaraventato tutta contro il povero... Possiamo dirlo. Il professor Borghi, il professor Claudio Povero, Borghi. Non so, però, insomma, non lo so. Vabbè, sentiamo qualche secondo di quello che è successo durante che la Gaia maratona. Tortola ha stellinato. E tu quanto eri contento? E io ero che molto contento. Ma ha scritto subito: ma stellinato Gaia Tortola. Sì, allora, che lavora al TG7 per chi non lo sapesse. Sentiamo un brevissimo estratto di questa maratona. Lei che parlava prima di investire sui crediti greci, compri lei domani i titoli degli istituti di credito in qualsiasi piazza azionaria europea. Vogliamo vedere che cosa succede domani ai titoli. non sto comprando, compro titoli di banche da anni perché purtroppo dipende dalla perché stupidità della gente. Perché ha letto il suo stesso articolo, però no. Io... No, però ragazzi, se facciamo credere che adesso che non c'è stato lo spostamento dei crediti... Ma lo sappiamo, l'abbiamo detto in questa stessa trasmissione, abbiamo detto, banche, ci faccia banche, credito, è il caso di dire, ci faccia credito del fatto che un pochino imparati siamo anche noi, Borghi, non è che... Faccio credito. Non è che ci siamo preparati stanotte perché sapevamo che l'avevamo invitato, un po' lo sappiamo anche noi, siamo al mondo, capito? Soltanto per il fatto che ci tocca dare le notizie. Sì, a un certo punto, anche, dopo un po', anche un po' basta. Ma è stato bello anche quando ha detto no, non c'era qui. Io 3 anni fa, un giorno sono stato malato, ma poi i giornali li ho letti. Direttore, era veramente un momento di e adesso basta? No, è che se siamo in 10 insieme in una trasmissione, uno non può sempre fare il professore. No? E poi capita che quindi quando lo fa una volta di più... scatti l'orgoglio di chi si sente offeso per il fatto che ci sono cose che sanno tutti, no? E quindi è stato necessario ripristinare l'ordine. Giusto, io su Twitter in tanti scrivono il vero servizio pubblico perché la RAI non fa lo speciale sulla Grecia in una delle 3 reti principali, il vero servizio pubblico è la 7, allora io cosa ho fatto l'altro giorno? C'era la presentazione dei palinsesti della 7, sono andata e l'ho chiesto all'editore. Cosa hai chiesto? Ho chiesto a Urbano Cairo, ma è servizio pubblico? Queste, le maratone di Mentana sono servizio pubblico? Ecco. Sentiamo. Cosa ha risposto Urbano Cairo. Beh, direi di sì, direi giusto, mi fa piacere che me lo chieda perché in effetti Mentana recentemente con la maratona di Atene ha fatto una grande performance, diciamo oltre che di durata, quasi 400 minuti, 397 minuti, quindi una cosa importante, e forse gli avessimo detto che mancavano 3 minuti, li avrebbe fatti per arrivare a 400, ma a parte questo ha fatto anche dei risultati notevolissimi come ascolti al 6,5% e ha fatto... una copertura importantissima, 9 milioni di italiani hanno seguito per almeno un minuto la maratona di Atene, quindi direi veramente Enrico Mentana da questo punto di vista ha delle capacità di rimanere in video che è veramente unica. Il maratoneta. Sì, però direttore io devo dire una cosa, è difficile trovare in Italia sul tema della Grecia qualcuno in grado di spiegare anche l'altro versante, anche la tua trasmissione a un certo punto, probabilmente anche tu nella conduzione te ne sei accorto, tant'è vero che come dire, raccontavi quasi più le motivazioni, diciamo, dell'altro fronte, del fronte guidato dalla Germania, per capirci. Come mai così difficile? Come mai questo unanimismo di entusiasmo per la Grecia? Allora, fammi prima dire una cosa, che Marta, che è brava, bella, intelligente, ha fatto una domanda a Cairo, che è bravo, bello, intelligente, però lei gliel'ha fatta sul servizio pubblico, lui ha risposto con i numeri privati. Però evidentemente... Ha parlato della durata, dell'ascolto, della copertura, no? Queste cose non caratterizzano il servizio pubblico, caratterizzano una trasmissione di successo, no? Per carità, sono anche contento e per alcuni versi, trattandosi di una trasmissione informativa, è il coronamento di un'aspirazione a fare un pubblico servizio. Però ci sono degli eccellenti servizi pubblici che proprio perché pubblici, nel senso di servizio al pubblico, magari non mietono grandi ascolti. Non è da quei particolari che si giudica un giocatore pubblico, diciamo. No? Lui fa il suo mestiere di imprenditore. Vediamo. No, però è divertente. Pratico. Che in realtà... per Cairo il servizio pubblico è dove metto la casa e ci sta dentro tanta gente. È il libero mercato. Sì. E invece, tu che cosa mi chiedevi, Daniele? No, che secondo me, guardando la dico tutta la verità. Le ragioni della Germania. Tutti gli schieramenti dicevano la stessa non cosa. Non è così, perché all'inizio è insospettabile dei fautori del sì. Cioè Stefano Feltri, vice direttore del Fatto Quotidiano, aveva ben espresso le sue ragioni. Il problema è che quando comincia a delinearsi il successo a valanga del no, non si commenta un risultato elettorale, non si dice il popolo sovrano ha sbagliato. Si sono ricordate sommessamente dove era possibile le ragioni del sì, lo ha fatto e lo doveva fare, che so, ad esempio la Bonafè, tanto per fare... il caso, un esponente del partito di governo non l'ha fatto, non l'ha fatto adeguatamente, forse, oppure l'ha fatto, dipende dai punti di vista. Franco Becchis lo doveva fare da vice direttore di un quotidiano che sicuramente è attento anche alle ragioni dell'Europa. Insomma, c'erano altri che lo dovevano che lo dovevano fare, che è Quagliariello, esponente di un partito di governo italiano e sicuramente più filo tedesco che filo greco, lo doveva fare, certo, lo doveva fare. C'erano gli esponenti di una corrente di pensiero o di più correnti di pensiero comunque più attente alle ragioni della Merkel che a quelle di Tsipras, tanto per dirlo in questi termini. Solo che c'è un piccolo particolare, Daniele, se fosse stato un dibattito il sabato, il giorno prima, avremmo avuto il dovere di tenere nello stesso debito conto le ragioni del sì e le ragioni del no. Ma quando vince il no, tu devi spiegare quali sono le ragioni del no, perché ha vinto il no e perché ha perso il sì. E che ovviamente è un dibattito che squilibra poi ex post le ragioni di chi voleva un'adesione all'accordo con l'Eurogruppo. Non so se mi sono spiegato. Ma noi abbiamo una brevissima pausa. Direttore, ti chiediamo solo qualche istante di pazienza perché abbiamo una brevissima pausa, poi torniamo ancora insieme perché abbiamo ancora una cosa importantissima da chiederti tra poco ancora con Enrico Mentana. YouTube. Rieccoci insieme, Daniele Bellasio, sì. Marta Cagnola e abbiamo Enrico Mentana, direttore, buonasera, rieccoci. Eccoci. Allora, abbiamo parlato di cose serissime. Se non dimostriamo un audio di quelle ci accusano. Perché per la completezza dell'informazione. Ecco, per la cronaca per fredda. La cronaca, per parlare della 7, non c'è solo un Enrico Mentana, ce ne sono due. Ce ne sono due. Noi dobbiamo di quello. No, perché c'è Daniele Bellasio che mi accusa di avere un debole per Crozza e di volerlo mostrare ogni puntata alla radio. Io non vado sempre pazzo per Crozza, per me ogni tanto non fa ridere. Però quando Crozza è Enrico Mentana mi piace tantissimo. Allora ne mostriamo solo qualche secondo alla radio perché voglio sapere cosa ne pensa il direttore Enrico Mentana. Buonasera. Ben ritrovati a questa ennesima, ma seppur sempre necessaria, maratona televisiva sulla triste e ferale notizia che Raffaele Fitto ha perso il suo iPad. Dove l'ha perso Fitto? È un mistero che possiamo definire Fitto. Giochino, basta con i giochini, anche se ormai più che di iPad Fitto ora può parlare di aveva pad. L'ha perso. Abbattetemi. Però questa era carina, Daniele. Non lo so. Direttore, cosa hai pensato la prima volta che hai visto Crozza fare Mentana? Lo sapeva. No, non lo sapeva. Non sapeva. No, anche perché secondo me anche lui ha detto: vabbè, proviamo, vediamo come reagisce. Che cosa l'hai pensato? No, io poi insomma è abbastanza noto che uso lo humor attivamente, ci mancherebbe altro che poi facessi quelli come quelli che dicono: no, ma. Non sono, mi ricordo quando Veltroni, che è stato un grande appassionato di questo tipo di trasmissioni, quando vide per la prima volta proprio Crozza, se non sbaglio, che lo imitava, si arrabbiò come una iena proprio, perché era la roba del ma anche. Faceva male. Ciascuno di noi ha i suoi tic, i suoi modi di esprimersi, è ovvio che li ha centrati bene i miei abbastanza più aspetti, anche se la voce non è uguale, anche se la faccia non è uguale, però mi riconosco molto in quelle che sono alcune mie caratteristiche, anche perché diverso è fare il telegiornale, diverso fare quelle che si chiamano ormai maratone, perché devi usare un tono più colloquiale, che è fatto quindi anche di più pause, di cambi di ritmo, di ammiccamenti, di a parte teatrale, no? Magari stai parlando con degli ospiti, però ti rivolgi al pubblico come in un a parte, come usavo una volta, per dire: avete capito che questo sta scherzando? Ci sono molti aspetti che sono perfettamente centrati. Poi ovvio, loro ci si sono messi d'ingegno e hanno scovato situazioni che mettono in rilievo tutto i tanti problemi tecnici che ha una piccola rete, il non eccesso di prodigalità dal punto di vista del finanziamento economico da parte dell'editore, ho usato un eufemismo per dire che Cairo è una riedizione di Arpagone, insomma, via dicendo. Ma perché, direttore, credi molto tecnicamente proprio allo speciale fatto a maratona? Perché credo allo speciale fatto a maratona? Innanzitutto perché sono stati sempre fatti, voglio dire, quando i grandi Dan Rather, Cronkite facevano la notte, facevano il programma sulle elezioni americane, quando insomma i programmi durano ovviamente tutto il tempo necessario per far familiarizzare il telespettatore con la sfida che è in corso, fino a vedere come si conclude e poi quali sono i commenti e le valutazioni. E ci vuole tempo per tutto questo, come è chiaro, e nel tempo necessario poi bisogna usare tutte le armi, quella dell'intervista, quella dei numeri, quella del collegamento, quella dell'ironia, quella della seriosità, insomma c'è tutto. Credo, perché queste cose noi le sappiamo fare, queste cose sono adatte a una rete come la 7, in cui non c'è quella, non sono quelle mille colonne d'Ercole dei palinsesti, per cui non si può fare questo perché c'è il game show, non si può fare questo perché c'è quell'altra cosa, non si può fare questo perché c'è la serie televisiva che c'è la quarta puntata, o il Grande Fratello. Il Grande Fratello, il Grande Fratello era un'altra cosa, non era. Il Grande Fratello fu proprio una questione, l'unica volta in cui loro facevano i laici e io l'uomo rispettoso delle fedi, quindi la vicenda di Luana fu un'altra cosa. Verissimo, verissimo. Direttore, grazie per essere stato con noi. Molto, molto contenta di aver avuto il direttore mentale. Ah, sì, vabbè, c'è una roba anche tra quella ragione lì, sì, vabbè. Questa cosa qui però è doppio, si parla sia della Cagnola che dell'Inter. E grazie, con questo grazie, sottoscriviamo tutti e due. A presto. Ciao, direttore. Grazie, buon lavoro. E noi cosa facciamo? Allora, adesso abbiamo parlato di sport. Sì. Continuiamo a parlare di sport. Continuiamo a parlare di sport. Beh, allora, avremo un altro grande campione in questa puntata. Avremo un altro grande campione, ma prima vorrei parlare di calcio. Hai detto Amala. Sai che è tornato. Cioè, non se ne ah no, ma te lo sai che te l'ho segnalato io, te ero lì attaccato al perché ai secondo siti. Me tu hai un Google, com'è che si dice, alert sul scritto suo Ferrero, nome Ferrero. Con scritto Viperetta, perché sai che quando no, c'è perché Viperetta siccome mi so piace che ti piace assai. Te lo regalo, questa è una puntata in cui tutti noi siamo buoni con Marta. Allora un vabbè, ogni tanto dai, Ferrero che? Show in libreria era a Firenze, sì, doveva per presentare il suo libro Una vita al massimo, sì, e ovviamente quando arriva Ferrero non ce n'è più per nessuno, ha fatto uno show in uno libreria. Uno show pazzesco. Non lo possiamo mandare tutti per tutto perché è durato maratona di Ferrero. Però un pezzettino ce l'abbiamo, un pezzettino Ferrero show in libreria. Salve Presidente, saluto. Salutiamo la famiglia. Ciao. Sto bene? Ciao. Stai bene? Vengo stravolentieri. Posso fare una foto? Hai comprato il libro? Quale libro? È il libro mio, cosa ho potuto fare qua? No! Come non lo sai? Spieghi. Buonasera, sono della libreria, intanto io pure. Ringrazio. Sì. Siamo va lui. Bene. E così che stanno a fare? Non lo so. Forse hanno saputo di lei. Ma sono pochi. Com'è che sono così pochi? Presidente, ma il calcio italiano segue sempre le regole, perché Tavecchio ha lanciato un allarme proprio in questi giorni. Solo 5 squadre potrebbero essere regolarmente iscritte. Se ha lanciato un allarme Tavecchio non lo so, io non ho sentito. Avete sentito un allarme voi? Non hanno sentito. Questi giornalari qua che vogliono. Buonasera. Siete contenti di essere qui? Certo, sì. Che dire? Giornalara. Giornalari. Radialara. Come si dice? Non lo so, però mi ha fatto molto ridere. Ballerina la radio rara. Esatto. Va bene. Mi ha fatto molto ridere quando ha detto non hai comprato il mio libro. Allora che sei fermo? Cioè, lui era ma il dopo ha continuato, durante la presentazione, quello è il bello di Sky, quello sì. È uno spettacolo, ne lo trovate su internet. Tutti i colori, sì, ce ne sono varie versioni, perché ovviamente tutti hanno fatto i video con i telefonini. E però questa è stata anche una settimana che abbiamo a che fare con lo sport, ma soprattutto col cinema in questo sì. caso, perché è mancato Omar Sharif. Sì. E io ero lì subito a pensare Lawrence d'Arabia, dottor, cioè ero lì che pensavo ai grandi film, al no, grande però, fascino di quest'uomo. So, ragazzi, i social network hanno tutti ricordato come fossero delle persone, ormai li trattiamo. Esatto, della la tua timeline di Twitter. No, però obiettivamente sì. Anche a me è venuto in mente quel film di Nanni Moretti, dove c'è quella scena pazzesca in cui... insomma, quell'altra scena pazzesca del film Dottor Zivago diventa un pezzo di un altro film. Insomma, la piscina della pallanuoto si svuota perché tutti sono lì a tifare. Ma in fondo era una rivisitazione del film. Va, tifano, vabbè, mostriamone Zivago. Un pezzettino alla radio per salutare Omar Sharif. Che Nanni, Avvertitemi quando c'è la scena del tram, perché io prendo e me ne vado. Anzi, sembrava più felice. Non posso resistere. Questo fu 8 anni dopo che lui e Lara si erano separati. Grazie, sei stato molto buono. È lei. È lei. Beh, dottor Givago, capisci il situazionismo di questa scena del mandarlo peraltro alla radio? Del, ma esatto, del mandarlo alla radio, sì. Un film che racconta un altro. Però secondo me è divertente anche per Omar Sharif essere ricordato anche per essere, come dire, per irruzioni nel cinema di tutt'altro tipo, no? Ma no, ma sicuramente lui poi era un grande campione. Abbiamo parlato di tanti sport. Lui sa di cosa era campione? Era campione di bridge. Ah. E a un certo punto ha detto: io facevo i film solo per mantenermi il bridge. Per mantenermi il bridge. Vabbè, bella questa cosa. Era bravo. Era bravo. Sì, sì, era un top player internazionale. Bravo. Grandi anni di Hollywood, quelli bello lì. Poi, ci siamo persi molto. Allora, vabbè, noi in realtà ci troviamo tra poco perché ci sono tutte le indicazioni per il traffico. L'ultima pausa, non del villaggio, perché fino a fine luglio siamo in onda solo con RadioTube. Il sabato del villaggio l'abbiamo mandato però in vacanza. Però già ci manca un po' il sabato del villaggio. Vabbè, ma dai, ma anche solo però tenere un po' RadioTube. Sì. Per tutto luglio è giusto così, perché noi non vogliamo fare le repliche. Noi comunque tutto luglio vi teniamo compagnia con le puntate nuove di RadioTube. Dicevo, adesso dobbiamo informarci sul traffico, strade, autostrade, sabato pomeriggio, tutti in giro. Ma dopo ancora sport, è un grandissimo campione, uno straordinario campione di uno sport che amo molto. E poi lui secondo me è straordinario, lo era e lo è ancora. Lo diciamo il nome? Anticipiamo chi ci sarà tra poco? E c'è Adriano Nazionale, Adriano Panatta, straordinario. Tra poco ci aggiorniamo sulla situazione del traffico su strade e autostrade, poi saremo ancora insieme con RadioTube. RadioTube. E rieccoci insieme dopo questa cavalcata piena di sportivi in questa puntata di RadioTube che mi sta piacendo moltissimo. Però, sai che non abbiamo ancora dato i nostri account, da un po' che non li diamo. Ah sì, @MartaCagnola, sì? @DiBellasio, #RadioTube. E così su Twitter ci potete trovare sempre, non vi sfuggiamo mai. Allora, abbiamo parlato di tanti sportivi, qui siamo proprio, andiamo proprio al top. Intanto, vabbè, questi giorni Wimbledon. Sai qual è stata la scena più carina in questi giorni di Wimbledon? Quella dell'uccellino che ha in Djokovic, no? No, a me è piaciuta tanto questa, anzi Andrea, mostracene un pezzettino. Oh, if he'd have missed that one, he would have got in trouble. Cioè David Beckham era tra il pubblico. Ecco. È partita una pallina e lui l'ha presa al volo e l'ha rimasto. Capito? Cioè David Beckham. Capito. Cioè tu sei l'unica che va a Wimbledon e guarda Beckham. Ah vabbè, scusa, era lì prontezza di riflessi. Ha fatto il raccattapalle al volo. Vabbè, ma è bellissimo, capito, David Beckham. Parliamo di tennis. Parliamo di tennis vero. Parliamo di tennis vero, perché allora io ho colto al balzo l'opportunità di chiamarlo e anche di fare una bella segnalazione, perché questa sera al teatro La Fenice di Venezia c'è un incontro che mi diverte molto. Mogol e Adriano Panatta, quindi sì, al telefono. Praticamente si raccontano un po' la loro vita, le loro carriere, mi piace molto questa cosa. Allora ho detto: ma perché non chiamiamo Adriano Panatta? E sai che noi abbiamo chiamato e ci ha risposto. Eccolo. Ce l'abbiamo al telefono. Buonasera Adriano. Buonasera. Adriano, che meraviglia. Come ti trovi intanto a parlare su un palco? Che impressione ti fa questa cosa che dovrai parlare sul palco della Fenice? Beh, ancora non lo so, per cui vedrò come andrà, ma questa cosa è nata per caso, perché io conoscevo Mogol da tanto tempo. Poi dopo ci siamo incontrati l'anno scorso a una convention in cui lui faceva Mogol, io facevo Panatta, nel senso io facevo tennis, lui faceva musica, e da noi ci siamo molto divertiti in questa occasione. Lui mi ha detto: dai, facciamo una cosa insieme, e alla fine ho tirato fuori questo progetto che si chiama Mogol Musica e Poesia, ma io faccio la valletta, non faccio nient'altro. Mogol racconterà tutti i suoi aneddoti, poi sul palco ci sono degli artisti straordinari, c'è questa band che è creata da lui, che si chiama New Era, che ha fatto insieme a lui, hanno praticamente rifatto tutte le grandi canzoni di Mogol e Battisti in versione rock. Poi c'è un grande pianista, Johnny Barbera, che è uno straordinario artista, anche lui un pianista straordinario, e sarà una serata dedicata alla musica. Io farò, cercherò di stimolare Giulio in qualche maniera, insomma lui è un po' urso, però con me si diverte, ride, per cui cercherò di farlo vedere in una nuova veste, e siamo molto contenti insomma di questa cosa qua. Beh, tra l'altro si parlerà di Battisti, sei un battistiano, Adriano? Beh, insomma, io, dato che sono anni 70 totalmente, sono stati gli anni in cui io ho giocato. Ai vertici del mondo. Vabbè, quello lì poi dopo è un dettaglio. Insomma. Ed erano gli anni in cui, logicamente, a parte che erano gli anni della musica più bella che c'è stata, secondo me, anni 70, per cui i ricordi da giovanotto, come si dice, sono per quelle musiche lì e per quei testi straordinari che facevamo con. Allora, ti tendiamo un'imboscata, Adriano, perché abbiamo parlato di anni 70. Sì. Abbiamo parlato di anni 70, abbiamo citato Wimbledon. Quindi io farei un saltino indietro al 1979, Andrea. Pressure, Bud Collins, when you're serving the second ball, center court, match point down. It's out. Strong have to play from nowhere into the Wimbledon semifinal. Dubray dal nulla alla semifinale di Wimbledon. Adriano, questa sconfitta quarti di finale di Wimbledon 1979, tu l'hai definita una delle sconfitte che ti hanno fatto più male nella tua vita, ma è vero? Intanto non è un'imboscata, ma è una mascalzonata. No, stiamo parlando di Wimbledon, ragazzi. Vabbè, insomma, dai. Diciamo la cosa che mi è rimasta un pochino con un grande amaro in bocca, perché quell'anno giocavo molto bene, per cui potevo anche tentare di vincere il torneo, ma insomma sono cose che nello sport succedono, purtroppo a me non è successo, ma succedono a tutti, per cui non ho, sì, mi dispiace, ma insomma poi la vita andrà avanti benissimo. Anche perché sai che in realtà testimonianza di questa cosa c'è, cioè, in rete, perché ce l'ha messa Pat Dupré, cioè ce l'ha messa lui, perché altrimenti che si ricordava di Pat Dupré, se le messe non sono le cose invece di Panatta. No, esatto. Ma infatti io avrei una curiosità, perché il Panatta giocatore, grande talento, anche amante del far divertire la gente, spettacolare da vedere, solo che Wimbledon c'ha questa cosa di queste regole così stringenti. Quest'anno addirittura hanno reso ancora più rigido il dress code, come si devono vestire. Perché Wimbledon ha questa voglia sempre un po' di perseverare nella tradizione, se non addirittura di rinchiudersi? Beh, insomma, è il tempio del tennis, un po' gli inglesi insomma ci tengono, insomma lo sapete anche voi. Non stanno tanto bene ogni tanto, con il cervello, perché Wimbledon è un torneo dove tutto quanto, come dire, molto rigido, molto, molto d'etichetta, per cui però ha anche il suo fascino. Credo che, oddio, tra vestire di bianco a Wimbledon e vedere Wawrinka con quel completino vanga rossa, forse hanno ragione gli inglesi. Ah sì, verissimo, verissimo. Devo dire che tutti i giocatori quando entrano a Wimbledon hanno, non dico soggezione, però sono meno arroganti di quanto non lo siano poi nei tornei, diciamo, di altro tipo, e questa qui è la grande forza. Ma l'impero Brinating ha fatto sempre questa cosa qua, per cui è storia, non è che è la storia anche Wimbledon. Certo. Adriano, tu tante volte hai detto che il tennis di qualche anno fa aveva più magia. Adesso, per chi fa il tifo, chi ti piace guardare giocare? Bella domanda questa. No, ma io faccio il tifo solamente per Federer, perché è un giocatore talmente straordinario, non c'è nessuno. Io ho sempre detto che non ho mai visto, non ho mai giocato contro, ho visto giocare qualcuno bene a tennis come lui, per cui è un piacere vederlo giocare. Lui fa delle cose che non si possono fare, lui invece le fa. Poi mi è molto simpatico Nadal, perché è un ragazzo bravissimo, modesto, straordinario. Mi dispiace che in questo momento sia un pochino in difficoltà, però insomma, però manca un po' un giocatore alla Panatta, no? Ma che volete più di Federer? Non ho capito. Federer è un fenomeno, sì, però Panatta era più, non so, alla LeConte, alla McEnroe, insomma non so spiegarlo, quell'esplosione di figo, lo dico io, più figo. Adriano, vabbè, più figo, ma non posso è che dirlo, si può parlare di, sempre di estetica. Vabbè ragazzi, io dicevo spettacolo, è un tennis diverso, si giocava più piano perché ci stavano delle racchette che non ti consentivano certe prestazioni, diciamo, di velocità, per cui era un tennis più morbido, era un tennis più di talento che di forza. Tutti questi animaloni che ci sono adesso di due metri non ci stavano. L'evoluzione dello sport è stata in tutti gli sport, è stato anche nel tennis, per cui è diventato più di forza fisica, un po' più brutale e meno di tocco, di fantasia, di estro. Purtroppo è così. Adriano, ti piace di più passare alla storia per la grandissima Coppa Davis o per il tuo gesto della maglietta rossa durante quella 76? Ma io alla storia non ci volevo passare. Però. Io feci. È stata una scelta. Come dire così, di protesta, no? verso la parte della maglietta rossa, logicamente verso il regime di Pinochet, ma insomma guardate che poi se ne sono accorti solamente quando ha fatto il docufilm Calopresti. Perché prima nessuno ne ha parlato mai, cioè, i giornalisti che stavano lì non hanno mai parlato di questa cosa, per cui se non se ne sono accorti perché era in bianco e nero, non avevano visto il rosso, stavano lì però se invece se ne sono accorti e non hanno scritto niente è ancora più grave, però insomma io non l'ho mai detto a nessuno, poi è uscito fuori dopo 30 anni credo. A parte la maglietta rossa fu la vittoria che fu importante per noi. Adriano Panatta, 10, cioè ragazzi, Adriano Panatta al vertice del mondo stasera, quindi alla Fenice. Veramente grazie per essere stato con noi, io sono ancora emozionata davvero, grazie Adriano per essere stato con noi. Grazie a voi, siete stati bravissimi. Grazie, buona serata, grazie. In bocca al lupo allora. Grazie. Ma uno abituato a Wimbledon, figurati su un palco. Sì, appunto. Ma se la magna la Fenice, Adriano Panatta, ragazzi. Daniele, che ospiti stasera? Come passa il tempo quando si hanno degli ospiti così. Sembra una maratona. E ci risentiamo. La prossima settimana. Ciao.